5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. The MA-6 vehicle has lifted off. The MA-6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good. Mostar, Tirana, Lagos, Kisangani, Cracovia, Karachi, Dhaka, Brazzaville, Monrovia, Nairobi, Lima, Port-au-Prince, Bogotá, Khartoum, Benares, Manila, Dakar, Samarkand, Ushuaia, Macau, Timbuktu, Antana, Arigo, Cotonou, Kathmandu, Dharamsala, Bombay, Casablanca, Tijuana, Rio de Janeiro, Santiago, La Habana. La vita nell'era spaziale non è niente male. Proprio niente male, proprio niente male. La vita nell'era spaziale non è niente male. Proprio niente male, proprio niente male. La vita nell'era spaziale non è niente male. Proprio niente male, proprio niente male. La vita nell'era spaziale non è niente male. Proprio niente male, proprio niente male. Vivere sotto un cielo popolato di angeli, di satelliti artificiali, di spiriti e di UFO, di rondini e di aquile reali, camminare tra file di alberi e di antenne radio, poter decidere se andare in Antartide o andare allo stadio. La vita nell'era spaziale non è niente male, posso decidere di festeggiare il Capodanno cinese o il Natale, Halloween o il giorno dei morti, e fondare una religione nuova che comandare banchi e accettazione degli aeroporti. E posso dire sì sì, e posso dire no no, e posso dire pure finalmente ma però, perché la lingua cambia quello che era errore, invece adesso si può. Extraterrestri, portami via. Sono del mio quartiere, della mia città, del mio paese. Sono europeo, sono italiano, ascolto musica inglese, ma sono americano e quindi un po' africano. E visto dal satellite non sembro neanche troppo umano. Sono a due dimensioni ma da grande ne avrò tre. La vita nell'era spaziale fa proprio per me. E intanto sonde sondano e forti pioggi inondano, la medicina avanza con falcate da gigante, applausi riservati solo al pubblico pagante assicurato, il futuro è già arrivato e se non stai attento assomiglia al passato, ma la notizia grazie a Dio si infanne macchia d'olio e forse l'idrogeno liquido sostituirà il petrolio, ma chi glielo racconta poi la Shell e compagnia Bell che c'è un motore nuovo che funziona con l'acqua della Cannelle? Posso sognare esattamente come ho sempre sognato e posso registrare tutto se l'ho dimenticato. Io posso pregare Dio a mia immagine e somiglianza, collegato col computer dentro la mia stanza. Extraterrestri, portami via. Voglio una stella che stia tutta lì. Extraterrestri, vieni a vita. Voglio un pianeta su cui ricominciare. La vita nell'era spaziale mi piace. Posso scegliere se fare la guerra o la pace. Se mangiare dei cibi biologici o geneticamente modificati, drogarmi con psicofarmaci o zuccheri raffinati. Una vasta gamma di dipendenze, legali e non legali, naturali, tecnologiche, chimiche, artificiali. E come sempre o si è nomadi o si sta lungo il fiume. Il Tigri, l'Eufrate, il Tevere, il Nilo, la via della seta, il modem, il filo che lega, il coltello che spezza, ti taglio la gola, ti faccio una carezza. Contatto avvenuto. Banane, banane, aromi di frutti di terre lontane, quintali di oro in cambio di pietra filosofale, la vita nell'era spaziale non è niente male. Vivere tra fiori e rifiuti senza avere paura, urbano come un cassonetto della spazzatura e cosmico come una radiazione interstellare, la vita nell'era spaziale non è niente male. Extraterrestri, portami via, voglio tornare dietro a casa mia. Extraterrestri, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Extraterrestri, Benares, Manila, Dakar, Samarcanda, Ushuaia, Macau, Timbuktu, Antanana, Rivo, Cotonou, Katandu, Dalanzala, Bombay, Casablanca, Tijuana, Rio de Janeiro, La Habana. Extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh, extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Oh, extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh, extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare, voglio tornare per ricominciare, voglio tornare per ricominciare.